attaccare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Domando se adesso i tifosi della Juve vogliono trattenere Vidal. Rapido resoconto. Sulla musica di Forum, naturalmente. Caso giudiziario che ha tenuto tutto il Cile con il fiato sospeso in corso di Coppa America. Protagonista, naturalmente, il guerriero, se della notte fate voi, definizione fin troppo facile, che nel suo giorno libero passa la serata in un casinò di Santiago del Cile. 140. Poi esce dal casinò dopo aver bevuto un po', questo un po' non si sa quant'è, con la sua Ferrari immortalata da 1000 fotografi il giorno prima, il giorno dopo anche di più, perché esce di strada e viene arrestato. Arrestatemi pure, ma se lo fate fottete tutto il Cile. Queste le sue parole agli agenti che lo traducono in questura. Arturo, possiamo conversare un secondo? Potenza dei social network e della comunicazione moderna, Vidal ci mette pochi secondi a postare un video in cui dice: no, io non ho fatto niente. Hola, hoy tuve un accidente de tránsito, no fue culpa mía, yo estoy bien, mi familia está bien y gracias por todo. In realtà non è proprio così, anche se Crosetti ieri ci ha raccontato che in Sud America spesso ci sono i guardrail che si muovono, i paracariche da soli vanno in mezzo alla strada, eccetera. Non è proprio così, perché poche ore dopo davanti al giudice ottiene una sorta di grazia, dai. 120 giorni di sospensione della patente e obbligo di firma al consolato cileno in Italia, a Milano. La grazia lo ottiene anche dal suo CT San Paoli. Ma già di che sicuramente quando tengamo chiaro tutto, sapremo che determinare con il futuro di Arturo, con noi e con nostra selezione. Hoy por hoy lo que necesitamos es incluirlo. Alla fine, e alla fine, Vidal ammette: colpa mia. Scoppia in lacrime chiedendo scusa a tutto il mondo. Me cuesta mucho hablar, pero estoy muy avergonzado de lo que pasó. Lo único que me queda es pedir disculpas, sentir el apoyo de la gente y demostrar en la cancha que esta oportunidad que se me está dando es por algo, así que nada, pedir disculpas a mi mujer, a mis compañeros, como lo dije, al cuerpo técnico, a los dirigentes, creo que les fallé a todos y voy a tratar de dar lo máximo para poder ser campeones, solo eso, así que perdonar a la gente también que se involucró en este accidente que fue culpa mía, así que nada, disculpa a todos. Mentre Guido scrive con sarcasmo festeggiava la Champions, Pierluigi Pardo non piangere, non ti preoccupare. No, non sto piangendo, tra l'altro ho appena bucato una bici, quindi se volete do la mia solidarietà, diciamo, di accidentato al signor Vidal. Hai bucato una bici? Sì, no, niente di così, splatter, tutto tranquillo, ho bucato al mare, la stradina, niente di grave, nessuna, rassicuro anche la mamma, solo la bici, solo la gomma della bici, che io sto benissimo, no, e quindi... Ah, questa è una storia che ha varie sfaccettature, cioè sì. Il momento lei non sa chi sono io, sì. A proposito, no, della minaccia, se mettete in carcere o comunque se me la fate pagare penalizzate un intero paese, ed è vero dal punto di vista tecnico e artistico, però insomma dovrebbe essere, come si dice in spagnolo, la giustizia è... Com'è? Non chiedermi in spagnolo. Todo, no? Sì, la giustizia è uguale per tutti. Dovrebbe essere questo. Sì, poi c'è una componente ovviamente di scarsa professionalità, anche se poi sappiamo che la vita degli atleti professionisti è un equilibrio sottile fra impegno e disimpegno, fra impegno e svago, per cui insomma non è che per forza uno deve chiudersi in camera in ginocchio sui ceci, questo sì. Detto questo, è chiaro che poi la volta in cui nel giorno di riposo nazionale si scopre che sta al casinò, si scopre che è ubriaco, hai sfondato la macchina, magari sei anche messo paura, quindi è un insieme di cose che ti mettono in una condizione oggettivamente complicata. Ma dimmi una cosa, questi giorni per la Juve tutt'altro che facili, Tevez che sta per ce ne sono almeno 15-16 che stanno più va bene. Questo è un mettevo stamattina, non so, un tweet o un post del mio amico Sabatini che diceva che se questo potrebbe avere delle influenze in negativo sul mercato, probabilmente ce l'ha, almeno dell'emotività del momento, nel senso che oggi probabilmente Vidal vale lievemente meno di due giorni fa, anche perché non è proprio nuovissimo da questo punto di vista a problemini extra calcio, quindi diciamo che però, se arrivassero 35 la Juventus succederebbe, però a questo punto comincia a andare via. La forza che hanno i calciatori, la forza che ha il calcio, è che se nella prossima partita Vidal entra bene, segna e già dimentica tutto. Sì, sono d'accordo, però sai, Vidal comunque, io ti posso dire fuori dai denti, dico Vidal, la Juventus avesse ceduto un anno fa avrebbe fatto un grande affare. Il problema è che adesso cominciano a essere tanti quelli che vanno via dalla Juventus, bisogna stare attenti anche alla diaspora, a mantenere gli equilibri, a... la strategia della Juve, mi scrive Giorgio Drugo, il nostro autore, è ora metterlo fuori dal mercato, cioè ritirarlo dal mercato. Vidal ce lo teniamo, però ci sono tanti gli interrogativi che si ammassano in questo momento per varie ragioni intorno alla Juventus, che è protagonista di questo, di questa prima parte di post stagione. Fermiamoci un attimo, poi torniamo con un grandissimo ospite che ben conoscete, vi dico dopo chi è. E con una notizia che oggi rende la famiglia Moratti, io credo, triste. Tutti convocati. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta. Convocati. Che urla tantissimo, palla al varo, El Chino Recoba, direttamente da calcio d'angolo, come in pochissimi sanno fare. Ancora il tocco per giocare a Guris, il cross in mezzo, anticipato ieri, poi Stankovic, tocco dietro, incredibile, 2-2. L'ultimo mi sembrava di conoscerlo, lo dicevo come voce, un po' triste, giorno in casa, Moratti, vabbè, arriva per tutti. Alvaro Recoba, anni 39, ormai fisico più da commercialista della Milano Bene, con tutto rispetto per la categoria che saranno commercialisti estremamente in forma o del bancario, adesso offendo tutti così tutti si arrabbiano e chiamano 800 24 00 24, facendo contento il mio amico Pierluigi Pardo, per favore fatemi contento Pardo, chiamate 800 24 00 24, poi faccio venire anche Beninazzo più tardi che vi spiega tutto su Doyen, Milan, l'Inter, la linea di austerity di Aurelio De Laurenti, tutte queste cose. Piacci sei, sì, Sì, sì, sono qui. Ma quindi che è successo alla Recoba? Sei ritirato. Da... Però qua è la maglia della battuta nazionale. È troppo facile. Cioè, perché stavo giocando ancora. No. Da quanti anni sei ritirato? No, Beppe Bergomi. Ciao, zio. Aiutami tu, compardo. Come? È stato blasfemo. Si è ritirato che... Recoba, ha detto: ma quanti anni era che si era ritirato? Mica no, oggi. C'aveva il fisico da commercialista quando giocavo con me. appunto. Mi permetto di dirlo perché è un amico il Cino, quindi e poteva fare di più di quello che ha fatto. Insomma, conosciuto le qualità che aveva questo ragazzo. Mi dici, scusa, poi andiamo su, svoltiamo su altro, però In che categoria di talento lo inseriamo, Recoba? Tu che l'hai comunque vissuto da vicino, che hai giocato, cioè, in che categoria siamo? Tra i Cassani di sicuramente. Tra i Cassani di Pardo, tra i Cassani di no, vabbè, in generale, cioè tra. Ma no, Pier, allora su quei giocatori che avevano un cambio di passo incredibile, un calcio di sinistro, ti ricordi i primi due gol che ha fatto con, sì, con il Brescia, sì, la prima, sì, giornata, sì, con Simoni, però voglia di allenarsi, voglia di sacrificarsi, poca, ecco, e quello poi fa la differenza, però era sicuramente un talento, poteva fare molto di più, Pier, ma in allenamento, le cose che faceva in allenamento erano straordinarie, poi non lo ripeteva mai in partita. Sì, quindi categoria dei Cassani, dei Balotelli, di questa gente qui più o meno. Senti Beppe, io volevo invece fare un discorso con te, Pierluigi, perché devi spiegarmi per quale ragione io so che difendi Benitez, per quale ragione? Perché lo dico, ci metto dentro anche la nostra categoria, perché noi siamo con Benitez siamo stati molto critici, invece con i nostri allenatori italiani lo siamo un po' meno. E non riesco a capire il perché, Carlo, nel senso, con tanti allenatori che magari hanno fatto meno bene oppure hanno fatto come lui, siamo buonisti e con lui ci siamo andati dentro dritti. Ci metto dentro prima di tutti Sky, perché anche noi abbiamo fatto grosse polemiche con un allenatore che è allenatore. Cioè, non possiamo dire che Benitez non è un allenatore. Cioè, poi io concordo con voi che quest'anno sicuramente ha fatto meno bene, ma l'anno scorso ha fatto il record di punti del Napoli, ha fatto più gol di tutti e la squadra a livello internazionale è conosciuta, insomma, perché il Napoli a livello europeo sia l'anno prima che anche quest'anno, è vero che ha perso la semifinale, però ha fatto bene. Poi gli ultimi mesi effettivamente non li ha fatti bene, lì secondo me con la testa ha staccato e non è riuscito magari a fare quello che aveva in testa. Sì. Però lo reputo un buon allenatore e noi, parlo della critica, con lui siamo molto critici, con altri allenatori un po' meno. Ecco, per quello a me dà un po' fastidio. Tutto lì. È molto soggettiva questa cosa. Adesso io mi sono ricordato, per esempio, di quel famoso diverbio Massimo Mauro. Esatto. Dico, ecco. Però io dico, in generale, per esempio, io invece mi sento per dire che l'ho difeso e lo considero e lo ribadisco da un'ottima persona, oltre che un allenatore che ha vinto tanto. Però, francamente, quest'anno secondo me non è vero. Nel senso che poi quest'anno invece, secondo me, col fatto che nelle coppe è andata avanti, di che sta parlando, una ciambella di Giacomo fino all'ultimo, addirittura fino all'ultima giornata, quando poi il gol di Young Ambiguagli ha consentito ancora di potersi giocare una partita vera. E secondo me, ecco, se penso per esempio a quello che è stato fatto a Mazzarri, per esempio all'Inter, in questa stagione, mi sembra che sia stato trattato forse anche peggio. È vero, Pier, ma noi continuiamo a dire di Higuain, no? Grande campione, tutto quanto, ma cosa ha fatto in Italia? Cioè, guarda quest'anno, io mi ricordo, Piero, non so se c'eri anche tu nelle nel playoff contro l'Atletico Bilbao, lui è uscito dopo la prima partita, già era triste perché il Napoli aveva pareggiato in casa e non è mai stato l'Higuain vero, non l'ha mai avuto. E anche il Napoli su 9 rigori ne ha sbagliati 5, 4 li ha sbagliati Higuain. Sai che quei 4 rigori sbagliati quanto hanno portato, cioè tolto punti al Napoli, anche nell'ultima partita? Lo sbagliò all'ultimo minuto con l'Atalanta, l'ha sbagliato col Milan, l'ha sbagliato nei momenti decisivi. Siamo molto critici con l'allenatore e poco critici magari con allenatore, con campioni che hanno reso molto meno e continuiamo a considerarli. Beppe, però l'abbiamo criticato anche Higuain, notando la sua così scarsa attitudine a essere decisivo nelle partite decisive, perché poi tu mi dici. Possono avercela portata via col Nipro per quel gol in fuorigioco, però l'ha persa lui. Ragazzi, per andata e ritorno, ragazzi. Però io quello che imputo a Benitez, scusate, non è un'ossessione, io non so perché continuo a parlare di Benitez, è il campionato. Cioè, secondo me, nelle coppe, dove tra l'altro Benitez ha vinto tutto, cioè Benitez è storicamente un allenatore più da coppe, quindi più da grandi partite, più da evento singolo che da continuità. E forse dietro a questo fatto che diceva lo zio, che è verissimo, cioè di un Higuain un po' fuori mentalmente dal progetto Napoli in troppi momenti della stagione, c'è anche il fatto che Benitez da questo punto di vista non è Mourinho, perché io sono sicuro che Mourinho, che forse tecnicamente non è superiore a Benitez come allenatore, però la capacità di portare i giocatori dalla sua parte, di dare l'anima. Io ho fatto l'autobiografia con Eto'o nell'anno del triplete dell'Inter, e Eto'o era indemoniato, ma anche in privato era, sembrava, sai, tipo quelle sette, no? Sì, ma è cioè, così, era settario. Sentiva il culto della personalità di Mourinho in una maniera, ed era uno che aveva già vinto coppe, che aveva già dimostrato tutto, quindi poteva anche avere, diciamo, il pelo sullo stomaco di dire, vabbè, di sapere, e invece no, era completamente dentro a questo progetto. Secondo me Benitez questa capacità non ce l'ha avuta, no, guarda, insomma, no, ma non ce l'avrà mai, non ce l'avrà mai, forse sì. Non ce l'avrà mai, cioè, non ce l'avrà mai, perché io so come tratta i giocatori, tratta tutti nella stessa maniera, perché tu vedi anche le rotazioni che fa, hai capito? Quindi lui, anche Higuain, per lui è come gli altri, forse gli dedica un po' più di tempo rispetto agli altri, ma non troppo. È quello che ha Mourinho, è unico, ecco, quindi non ce l'avrà mai. Però a me dispiace, perché poi sotto l'aspetto tecnico mi sembra un buon allenatore che sa lavorare bene. E quando Piero, andiamo, lo dico a te perché siamo sempre sui campi e ci vediamo, quando vedi giocare Napoli almeno ti diverti, è un divertimento vedere giocare Napoli. Sì, però poi Zio arriva quinto e incassa una quantità di gol che neanche chi si salva l'ultima giornata. Preso 4 gol a Empoli, ha pareggiato Parma, retrocesso, cioè, alcune volte io l'ho commentato spesso quest'anno, è scesa in campo, penso a Torino-Napoli quando venivano da una vittoria larghissima, credo col Trabzonspor in Europa League, non è scesa in campo a Verona contro il Verona, presi a pallate, ne ha sbagliate troppe. Questo è incredibile, perché secondo me la qualità del Napoli, cosa, non è una critica al Napoli, anzi è un complimento implicito, cioè secondo me la qualità che aveva il Napoli almeno davanti e anche a centrocampo doveva nelle 38 partite fare di più. Poi le coppe, lo sappiamo, sono un biglietto della lotteria. Benitez ha vinto una finale di Champions League contro il Milan, non sa nemmeno lui come, e poi ne ha persa un'altra paradossalmente più equilibrata, perché la partita di Atene sarà sicuramente più equilibrata di quella di Istanbul, no? Noi abbiamo vinto la finale dei mondiali soffrendo, insieme a qualcosa che l'ha commentata mirabilmente, contro i francesi, e qualche anno prima avevamo perso la finale europeo dove potevamo proprio comodamente andare sul 2-0 a 20 dalla fine. Quindi poi la partita secca lo sappiamo che è così, ma nelle 38 partite un po' più di continuità. Ne ha sbagliate troppe, tanto da levargli gli alibi. Un'ultima cosa voglio chiedere a Beppe Bergo invece: Ibra al Milan sì o no è il tormentone del momento, e chi al posto di Tevez l'altro tormentone del momento? Se io fossi il Milan direi di no, è così, però, ma non lo dico da interista, ma è condiziona molto Ibra. 34 anni, hai già preso Jackson Martinez, hai giocatori molto esterni come Sharawi, Onda, Bonaventura, sfrutterei più i giocatori che hai a disposizione, anche se capisco che Ibra è uno che domina nel nostro campionato e l'ha quasi sempre vinto. E l'altra, io avrei fatto di tutto per tenerlo Tevez, per far crescere Dybala da quel punto di vista. Sono perché d'accordo. Tevez un anno è un giocatore straordinario, un anno perché di scuola, l'importanza sua all'interno dello spogliatoio è stata una sorpresa anche per i dirigenti della Juventus, questa sua capacità di trascinare la squadra, e quindi a perderlo è una perdita importante. Spero per la Juve che non perda anche Pirlo o altri giocatori importanti, perché perdere tutti in uno stesso momento può determinare molto. Beh, però Pirlo forse meglio finire, no zio? O no? Sì, no, però sai, dopo all'interno di una squadra questi erano i due giocatori carismatici, sono quelli nel nostro calcio, il 30% dei gol si fanno anche su calci da fermo, sia Tevez che Pirlo sappiamo l'importanza di averli. Non lo so, cioè è giusto anche c'è finire, giustamente, capisco anche il tuo discorso, però attenzione, perché a livello di... Io ho maturato questa mia esperienza vedendo tante partite, alla fine ci sono tanti buoni giocatori, ma crescono intorno a un leader, sì. E i leader sono pochi. Benissimo, infatti la scuola Tevez per Dybala sarebbe stata la soluzione ponte migliore, poi l'anno prossimo con buona pace di tutti torna al Boca. Grazie Beppe. Grazie a voi, come sempre. Ciao Beppe Bergomi. Pier, abbiamo la borsa. Da lì, come va con la bici? No, niente, l'ho riconsegnata, ma no, è indigata. Un problema accidentale, del bucato, tutto a posto, sto qui al centro di Favignana, benissimo. Molto bene. Grande classe. Mamma è avvisata, ok, tutto ok. Penso di sì, insomma, sto bene, sono vivo, aspetta, muovo le gambe, tutto a posto. Senti, ti sento, no? Borsa. Ci può stare. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta. Si ricomincia. Tutti convocati. Allora, si ricomincia da Pardo a Piedata Favignana, perché ha bucato la bici. Se qualcuno potesse, avesse buon cuore, dargli un passaggio meglio. No, adesso dovrebbe arrivare anche un Piana che dovrebbe rendere la giornata nettamente in discesa. Volevo dirti che Piccinini, l'ho raccontato l'altro ieri, è pronto a farci causa, vuole le royalties. Si ascolta sempre, si diverte, dice, ci fai complimenti, si vede che vi divertite, però insomma, all'80% delle sigle, cioè o stabiliamo un giusto compenso oppure non sì, lo so, hai ragione. Funziona, è credibile. Hai ragione. Lo salutiamo. Come salutiamo Marco Berinazzo, che è l'uomo del momento, ci ha raggiunto. Ciao Marco. Al momento oggi ho visto una bella recensione sul Corriere dello Sport. E adesso ne parliamo. Ieri una sulla Gazzetta di Goal Economy. La lettura per l'estate, per la vostra estate calcistica. Però prima Antonio da Milano e Giovanni dalla provincia di Salerno, se no stanno lì in attesa un'ora col telefono in mano. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno, ciao. Ciao, dimmi. Io tengo il Milan, ma volevo intervenire velocemente sia su Benitez, per dire che il suo Napoli, se non ricordo male, quest'anno è riuscito a perdere dal Milan, quindi insomma ce ne voleva. Sì. E poi su Ecoba, se posso, direi che ha il fisico da giornalista sportivo, oltre che da commercialista. Ah, però, perché tu fai commercialista? No, però insomma... Attacca a Ecoba, va bene. Grazie, grazie ragazzi, buon lavoro. Grazie. Ciao. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Da Juventino mi chiedo, vi volevo chiedere, ma è tutto improponibile un attacco con tutti i giovani, Dybala, Zaza, Berardi, Coman e Morata, cosa ne pensate? Beh, che sarebbe molto interessante, ma meno forte rispetto a prima, se non altro dal punto di vista del carisma, della capacità di trascinare, della leadership, eccetera eccetera. Poi se vogliamo far giocare Zaza, Berardi, Dybala, tutti questi qui, secondo me è gente che deve imparare, eh? Ma no, quando hai Dybala, Morata e Coman, diciamo che dal punto di vista della categoria delle quote giovani già sei messo benissimo. Sì, appunto. Cioè, il futuro è già dalla tua parte, quindi io penso che se partirà Tevez, come sembra probabile, serva un crack, serve un giocatore di quelle caratteristiche, ce ne sono pochi. Mandžukić può essere una buona soluzione alternativa, sono fatto il nome di Cavani, ma sarebbe un colpo al cuore per il signor Berinazzo, quindi facciamo finta di niente. Però insomma, mi sembra che uno forte serva se parte Tevez. Sì, anche rispetto per Zaza e Berardi, che si faranno e sono ottimi giocatori. Perfino dal punto di vista proprio dell'immagine, direi quasi, è arrivata l'insalata. Allora siamo tranquilli. Marco Berinazzo, Goal Economy. Goal Economy. Cosa si cela dietro le contestate assegnazioni dei mondiali alla Russia e al Qatar? È solo una coincidenza che appena sei mesi dopo che il Paris Saint-Germain sia passato al fondo sovrano qatariota? E perché Stati Uniti, Cina e India investono sempre più spesso in club stranieri? Siamo passati dal football alla... al calcio sempre più globalizzato e finanziarizzato. Ci sono stati dei movimenti, delle trasformazioni negli ultimi 10 anni, da quando eravamo il campionato più bello del mondo a quando oggi siamo diventati la serie B d'Europa e forse domani la serie C del mondo, se non facciamo determinate riforme. E ho voluto raccontarle e raccogliere in questo libro. Però, visto che siamo in casa, voglio dire una cosa un po' più semplice, che di solito non si dice in una presentazione ufficiale. Io non ho scritto questo libro per fare il figo o far vedere quanto ero bravo a capire i movimenti finanziari. L'ho scritto con lo spirito di cercare di far capire a tutti, ma proprio a tutti, quindi non solo agli economisti, quelli che sono gli aspetti essenziali oggi dell'industria che si muove intorno al calcio. Ho cercato di rendere chiaro il più possibile anche i concetti più difficili. E spero di dare un piccolo contributo. Questo libro avrà un senso se avrà dato un piccolo contributo alla crescita culturale del movimento calcistico italiano, che parte dal basso. Perché la cronaca solo negli ultimi 10 mesi ti ha dato tutto quello che volevi, tantissimi spunti, ma questo libro raccoglie quello che è successo negli ultimi 10 anni e quello che accadrà nei prossimi 10 anni, ed è un libro per chi, come dire, ha voglia di farsi un'idea di quello che sta accadendo, di non farsi prendere in giro da certi presidenti e di farsi un'idea propria su quella che vuol dire, per esempio, la collaborazione tra Doyen e Milan. Tanto per citare un caso. Tra può domandarsi chi c'è dietro le grandi squadre americane, la MLS, che tra 5 anni vogliono concorrere con le squadre europee, o chi c'è dietro le grandi squadre cinesi. La squadra di Lippi, il Guangzhou, che a gennaio ha acquistato i 2 migliori giocatori del campionato brasiliano, l'ha fatto anche perché nell'azionariato, oltre a una grande impresa di real estate, e lì non costruiscono palazzi ma città, si è aggiunto come socio socio Alibaba, che è questo grande portale quotato a Wall Street per oltre 12 miliardi di euro. Quindi parliamo di squadre e di proprietà che normalmente potrebbero comprarsi mezza Serie A, e noi siamo qui ancora a discutere di linee del fuorigioco, di deferimenti di Lotito, con una Lega sempre spaccata in stile condominiale, e non si avverte la necessità invece di vere trasformazioni che siano coese. La Premier League, la Bundesliga, che oggi ci sopravanzano, erano messe molto peggio di noi 10-15 anni fa. Hanno capito che il business va fatto in maniera collettiva, hanno creato delle strutture. La Premier League è una sorta di società per azioni, in cui ogni club ha un'azione che poi trasferisce a chi arriva in Premier. La Bundesliga cura collettivamente tutti i diritti. Ora, non è un caso che noi siamo molto indietro. Poi le partite le puoi vincere sul campo, perché per fortuna il pallone è rotondo, però devi avere una struttura che ti permetta oggi di fare i fatturati, perché la storia del calcio oggi viene scritta dai fatturati. Non bisogna dimenticare le tipicità del nostro paese, per cui mettere d'accordo Preziosi, Zamparini, Spinelli, De Laurentiis, Berlusconi. Posso andare avanti? Li devo citare tutti? Pierluigi? A me il futuro fa un po' paura, io non so se ho il coraggio di guardare cosa succederà di leggere il libro di Benignazzo, cosa succederà tra 10 anni. No, ma sicuramente io qualche anno fa potevamo dire purtroppo il pallone è rotondo, nel senso che le nostre strade erano più forti, e quindi se perdevano per un accidente divino in certi casi, no? 15 anni fa o 20 anni fa. Oggi arriviamo a condividere quello che ha detto Beninazzo. Poi per fortuna il pallone è rotondo, quindi qualche volta riusciamo anche noi a fare delle imprese, ma dal punto di vista strutturale del campionato dei fatturati, che drammaticamente, ahimè, è quello che poi nel lungo periodo ti fa vincere, perché questo ormai è un mercato globale. Quindi siccome è un mercato dove i giocatori possono giocare in qualsiasi parte del mondo, non è che gli italiani giocano in Italia, gli spagnoli in Spagna, gli inglesi in Inghilterra, allora è aperto a tutti, e quindi chi ha più soldi vince. È molto triste, al di là poi chiaramente della qualità tecnica della singola stagione, della singola partita, ma nel lungo periodo chi ha più soldi, cioè Paris Saint Germain non ha vinto la Champions perché non è stata altissima, però è arrivato a Paris Saint Germain in Francia e ha cominciato a vincere gli scudetti, il Manchester City in Inghilterra, cioè, c'è poco da girarci attorno. Aggiungo una cosa, Pier, scusami se ti interrompo, che non è solo una questione di vincere per vincere, ma è che oggi è globalizzato anche il calcio delle TV, e quindi i giovani non hanno più un legame territoriale per quanto riguarda il tifo, l'apprezzamento. Certo. Quindi vincere significa avere più tifosi nel mondo. Io conosco tantissimi ragazzini, ma penso che anche per quanto mi riguarda è lo stesso, che sono tifosi del Barcellona, del Manchester, domani lo saranno di una squadra cinese piuttosto che di una squadra americana. Cioè, quindi si è globalizzato anche il tifo, e se non sei competitivo rischi davvero di essere del tutto marginalizzato. Per recuperare quel terreno poi, insomma, ce ne vuole, non basterà più costruire uno stadio. Va bene. Allora ci fermiamo per, ripeto, la mia grande preoccupazione è che nel paese dei Guelfi e Ghibellini, delle signorie, delle cinque repubbliche marinare, mettere d'accordo tutte queste componenti sia qualcosa di pazzesco, ma è solo una mia perplessità. Traffico. Sono dovuto andare a vedere sul tavolo dove era il Qatar. Tutti convocati. Convocati 800 24 00 24, tutti convocati sempre. Approfitto della presenza di Marco Berinazzo, che molti tifosi del Milan e non solo stavano aspettando, per provare a dirimere il caso del fondo Doyen, perché io non sono riuscito a capirci nulla in questo palleggio, in questo imbarazzo di una parte della dirigenza del Milan nell'avere come partner questo fondo. Io è un imbarazzo che non capisco e che credo sia fondamentalmente di facciata. Il problema è che questi fondi, tanto per essere sintetici, nascono negli anni 90 in Sud America per acquistare quote di cartellino ed investire, così come si investe nel petrolio in borsa, sui giovani calciatori, ottenere un ricavo dalle plusvalenze. Questa era la finalità di questi fondi. Tanto che proprio Tevez e Mascherano furono presi da un fondo. Il primo caso in Europa fu quello di Tevez e Mascherano, portati da un fondo che si chiamava MSI al West Ham, e poi venduti senza che il West Ham sapesse nulla. A quel momento la Premier ha vietato formalmente solamente le TPO. Il divieto ufficiale del TPO è arrivato dalla FIFA solo a dicembre scorso e vale dal 1 maggio 2015, anche se c'è un ricorso di Spagna e Portogallo alle istituzioni europee, e vedremo se questo ricorso sarà accolto o meno. In ogni caso, questi fondi si sono trasformati sempre di più, sono ormai delle mega agenzie nella cui orbita gravitano i migliori giocatori, hanno patrimoni in termini di valori di giocatori superiori a 500 milioni di euro. Doyen è sicuramente il più importante. Doyen è un fondo che nasce per investire in metalli preziosi e in petrolio, poi capisce che c'è business nel calcio, costruisce questo ramo che si chiama Doyen Investment Sport, lo dà in mano a Nelio Lucas. Nelio Lucas ha un passato, diciamo, in passato faceva il PR nelle discoteche, ma poi voglio dire, evidentemente ha brillantemente superato qualche esame, era perfetto, era per il mondo del calcio, ma perfetto. Ma oggi è stato bravissimo a costruire intorno al Doyen davvero una ricchezza smisurata, in parte diciamo legata anche a una forte collaborazione con Jorge Mendes, il mega agente da Mourinho in giù, insomma di nomi ne potremmo fare tantissimi, ultimamente non vanno tanto d'accordo. Però ora la funzione di questi fondi qual è? O quella di acquistare piccole squadre da cui fare transitare i giocatori, così non c'è più il problema del TPO. Per esempio Traffic, che è stato coinvolto anche nello scandalo FIFA, ha comprato una squadra in Portogallo, l'Estoril, portandolo anche all'Europa League. Oppure di prestare soldi o prestare consulenza. Ora, nel caso del Milan, ho fatto questa premessa ma penso sia indispensabile, altrimenti non ci capiamo nulla. Nel caso del Milan, diciamo, il Milan non ha incassato 480 milioni, a parte appunto che si deve chiudere il contratto. Sì. L'incasso viene fatto dalla Fininvest, che cede, certo, queste quote. Ora bisognerà capire quanti soldi la Fininvest metterà a disposizione del Milan per il mercato, si parla di dai 100 ai 150 milioni. Quindi Doyen non presterà soldi probabilmente al Milan, ma presterà la sua consulenza per l'acquisto dei giocatori, cioè farà arrivare al Milan quei giocatori che altrimenti al Milan non sarebbero mai andati per una serie di ragioni, perché sono controllati dal Doyen e sarebbero andati in squadre vicine a Doyen. Vedi Jackson Martinez, vedi molto probabilmente Kongo Bia, vedi altri giocatori, perché la finalità del patto tra Mr. B e Berlusconi è quello di riportare subito il Milan in Champions. Questo aumenterà i ricavi, questo aumenterà l'appeal del brand e permetterà una munifica quotazione a, certo, Singapore, certo, nell'ambito della quale sia Berlusconi sia Mr. B metteranno delle proprie quote, ci faranno dei soldi, a quel punto liberi tutti e molto probabilmente Mr. B e chi gli sta dietro comprerà più quote di Berlusconi e diventerà il nuovo proprietario, magari non con la maggioranza assoluta, ma quando si va in borsa basta anche una maggioranza del 40, una maggioranza relativa. Una maggioranza relativa che consenta di comandare, capito Pardo? Capito com'è il giro del fumo? Ho capito, in qualche modo mi conferma la sensazione, cioè non siamo di fronte certamente a una fattispecie punibile o da considerarsi illegale, semmai siamo di fronte a un bei tempi che può far un po' storcere la bocca, perché insomma è chiaro che l'idea dei fondi di investimento, ma che non nasce con questa collaborazione col Milan, nasce ovviamente molto prima, di investire in merce umana, sia pure preziosa come il petrolio, in certi casi anche di più, insomma può essere un po' spoetizzante, però mi sembra che dal punto di vista reale non ci sia niente vada, ecco. La mia idea, Pierre, è questa, e l'ho scritta insomma in Goal Economy, cercando di essere il più obiettivo possibile. Noi siamo arrivati a un certo punto in Italia a metà anni 2000 in cui una banca capitale aveva la proprietà sia della Roma che della Lazio, tanto per capire quanto sia storico il legame, l'intreccio tra mondo della finanza e mondo del calcio. Il problema è che ci sono tanti rischi legati ai fondi, dal riciclaggio, dal rischio di combin, dal rischio di schiavitù, come ha detto Platini, ma un semplice divieto non risolve il problema. Il fatto è che bisogna accettare la presenza di questi fondi e semmai regolamentarli, cioè io voglio sapere chi è la proprietà, chi sono i finanziatori e chi sono i giocatori. Molto semplicemente, a quel punto può essere tutto chiaro. In Inghilterra, se un giocatore viene dato in prestito da una squadra a un'altra, non gioca contro quell'altra squadra, perché si sa che è in prestito. Questo evita conflitti di interesse. Analogamente si possono pensare a regole di questo tipo. Dire semplicemente, da questo momento i TPO non si fanno più, significa per esempio mettere in ginocchio un movimento calcistico come quello brasiliano, in cui il 90% dei giocatori della Serie A sono in mano ai fondi. Tant'è vero che il governo brasiliano aveva offerto un condono fiscale di oltre 1 miliardo di euro ai club brasiliani in cambio dell'abolizione graduale delle TPO, e i club brasiliani hanno detto no, lasciamo stare, paghiamo le tasse, ma ci teniamo le TPO. Che ci prendono i giocatori. Pierluigi, ti lascio. Lasciami così, come una cosa posata in un angolo, no, dimenticata. No, ti lascio, ti abbraccio con grande affetto. Ho citato Ungaretti così, in mezzo all'insalata siciliana, sono citato Ungaretti, poi non ti lamentare. Grande cultura, Pier. Grande cultura. Ti abbraccio. C'è chi mi dice che le Repubbliche Venere erano 4, non 5, sì, lo so. Ogni tanto capita. Mi capita di far confusione su questo. Quella come una mafia favignana. Sono mica. L'ho interpretato come un omaggio a Favignana, sì, sono qua, la quinta, so Amalfi, Genova, Pisa, Venezia e Favignana, le 5 Favignana. Ciao Pierino, a domani. Ciao, Pierino. Abbiamo ancora un minuto. Allora, vi faccio sentire molto rapidamente quanto ha detto De Laurentiis l'altro ieri. No, io non sono preoccupato degli stranieri, io sono preoccupato piuttosto dei bilanci delle nostre società, perché ne parlavo con Tavecchio e Tavecchio mi confermava che probabilmente soltanto 3 società potrebbero iscriversi al campionato. Abbiamo un minuto prima del GR, un minuto è poco. Dimmi una battuta e poi approfondiamo il discorso. La FIGC ha introdotto, per evitare altri casi Parma, dei parametri che saranno applicati gradualmente, nuovi parametri, in parte riprendendo quelli aboliti nel 2007 per far iscrivere squadre che altrimenti non avrebbero potuto iscriversi, sì. Quindi la storia si ripete. Questi nuovi parametri entreranno in vigore, ripeto, gradualmente, tant'è vero che non ci sono sanzioni il primo anno. A quanto mi risulta, diciamo, sono state fatte delle simulazioni ed effettivamente non so se 17 squadre, ma molte non rientrerebbero in questi parametri se applicati subito rigidamente. Perfetto, se volete approfondire il discorso dopo Gera, mi tengo Marco Berinazzo, siamo qui ancora 800 24 00 24, abbiamo anche altre, un sacco di altre cosine di cui parlarvi, a dopo. E poi su Ecoba, e se posso direi che al fisico da giornalista sportivo oltre che da commercialista. Tutti convocati. Scegliete il libro. Mettete tra una pagina e l'altra le scene del film. So che queste un giorno diventeranno delle storie e che le nostre immagini diventeranno vecchie fotografie. E sottolineate i passaggi chiave con le canzoni della colonna sonora. Just for one day. Tutto questo è Audiogrammi. Ogni domenica alle 20:15 vi raccontiamo una storia tratta da un libro e trasportata dal cinema alla radio. Audiogrammi. Domenica alle 20:15 su Radio 24. Anche in podcast su radio24.it. Senti Angelo, è vero che non bisogna tenere i cani sul letto quando si dorme oppure farli salire sul divano? Non è sbagliato, al contrario di quello che dicono molti educatori cinofili, non lo è. Ma invece scusami, quello che si dice che bisogna essere il capobranco, il padrone. Ma che capobranco? E allora scusa, che il cane sente quando un altro c'ha paura? Questo è vero. Ecco. Se avete dubbi della vostra vita assieme al vostro cane, gatto, pesce rosso, canarino, furetto, qualunque cosa vi volete chiedere, chiedimi se sono felice. È il programma che fa per te. Dalla prima domenica di luglio alle 10 del mattino per tutti i prossimi weekend fino a settembre. Conducono Angelo Vaire e Rosetta Celentano. Scriveteci a chiedimi se sono felice @radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Interplanet.it, servizi innovativi di telecomunicazioni nel Veneto. Convocati. Parte Quadrado con il destro, la palla liftata, proprio il colpo di testa, palla che rimane lì, attenzione, la palla in rete, il vantaggio della Colombia, la girata dovrebbe essere di Murillo, è Murillo il neo giocatore dell'Inter che è andato a segnare con il sinistro il gol del vantaggio colombiano al 37esimo minuto. È finita in questo istante, può esultare Carlos Beckerman, può esultare un intero paese, la Colombia ha battuto il Brasile. Ecco la testata di Neymar, la spinta di Bacca e qui è partita praticamente la rissa finale. la Coppa America, le emozioni non ce le fa mai mancare, eh? Tra Ferrari sfasciate un giorno e mega rissa al termine di Brasile-Colombia 1-0 della Colombia, gol dell'interista Murillo, che con Neymar grande protagonista nei vesti di scazzottatore e di lottatore da strada, che si becca due giornate di squalifica tanto per cominciare. Sì, immagino che lo preserveranno, gliene daranno soltanto due per evitare di fargli finire qui la Coppa America, visto che è la stella principale. Sì, intanto se c'è un casino si infila in mezzo sempre. Poi precisiamo, torniamo su quel discorso che abbiamo affrontato in solo un minuto prima del giornale radio con Marco Berinazzo, e cioè questa storia secondo cui molte squadre sarebbero fuori dai nuovi parametri disegnati dalla Federcalcio per il prossimo futuro. Sì, ecco, no? C'erano qualche tweet che attribuiva a me la frase 17 squadre. L'ha detto, no? De Laurentiis. Quella De Laurentiis, insomma, so che molti mi vorrebbero come presidente del Napoli, scherzo, arrivare fino a questo punto. Io ho detto che sono state fatte delle simulazioni e molte squadre, insomma, non sono, però non credo 17, altrimenti insomma saremmo veramente in una situazione drammatica. Diciamo, sì, che siamo in una situazione difficile, ma non così tragica. Anche perché è un campionato a tre, poi voglio vedere a vendere i diritti televisivi. Giorgio Terruzzi, buongiorno. Buongiorno a voi, ragazzi. A proposito di grandi uomini di TV e di opinion leaders, Giorgio, eccomi. Zeltweg, Formula 1, rischia di essere l'aeroporto definitivo per il volo della Mercedes? Ma sì, ma questo è già stato aperto da un po' l'aeroporto. Poi insomma mi sembra che siano gli unici voli in arrivo, in partenza, insomma, alla fine, no? Quelli lì Mercedes. Mi sembra, sì, che la realtà sia un po' questa. Poi c'è stato un po' di frenesia, di entusiasmo, c'è stato un entusiasmo all'inizio dell'anno che la Ferrari era seconda, addirittura prima. In realtà mi sembra che non ci sia storia. Non ci sia. Però sai, finché c'è lo spazio per la fantasia, uno ci prova. Ci dà dentro. Dammelo con la fantasia. Quando mi togli anche quella, allora si torna al Canada, alla Formula Noia, a queste cose qui. Sì, insomma, a Monte Carlo, meno male che Verstappen ha dato una tronata. Secondo me gli hanno proprio detto: dai, facciamo qualcosa per tirare sul morale della truppa, e ha dato quella tronata lì. Ha cambiato tutto negli ultimi 5 minuti, ma era una domenica da sonni profondi, no? Canada, che è una pista di solito dove succedono delle cose strane, poco o niente. Mi sembra che la Mercedes abbia un margine addirittura in tasca, no? Per fare quello che vuole. Il problema è che non c'è altro, cioè, possiamo essere contenti perché la Ferrari è la prima della lista dietro, sì, lì, però poi non c'è altro. Sì, praticamente il campionato di calcio italiano, stessa cosa. Poi sì, il fatto che non ci sia uno come Alonso tolto dalla prima linea delle ballerine è una bella perdita, è come tirar via Angelina Jolie dal film, no? Sì. Cioè, non è che gli altri sono carini così, certo, può averne qualcuna carina ma carina così no. Marco Berinazzo, quando ti metti a rovistare nel mondo della Formula 1 dal punto di vista dell'economia? Appena avrò un po' di tempo, anche perché è un mondo molto, molto ricco, molto interessante. Anche lì c'è un mamma santissima, è immortale. Sì, sembra che appunto eterno, e che riesca a scansare ogni tipo di casino, di processo, di che laddove inondazioni, invasione delle cavallette. Tanti soldi, poi c'è sempre un imperatore, no? Non so se dovrà intervenire l'FBI anche contro. Insomma, cosa dici, Giorgio? Ma insomma, è che sto fa il suo mestiere, ragazzi. Fa il suo mestiere, eh? Lo fa benissimo, posso dirlo? Lo fa benissimo. È saltato campione di Germania in 2 minuti senza che nessuno abbia detto bah. La Germania c'ha Vettel che ha vinto 4 degli ultimi 5 mondiali, c'ha la Mercedes che ne ha vinti gli ultimi, ha vinto l'ultimo e vincerà questo. E non ci sono i soldi, chiude la baracca. Insomma, andremo a correre in Ghana, non lo so, cioè. Là dove ci sono cioè il petrolio, dove ci sono i dollari, eccetera. Ma questo, mi domando quale senso abbia il viaggio della speranza degli emissari di Imola che vogliono riportare, pronti a salvare la presenza in Italia, il sindaco che dice faremo la nostra parte per quantomeno un gran premio in rotazione. Il problema è che né a Monza né a Imola c'è il petrolio. non so, a meno che abbiano voluto fare un movimento per attirare qualcuno che li aiuti, sì. Però mi sembra che siano molto lontani, mi sembra che siano lontani più o meno come Monza, nel senso che poi loro hanno, avrebbero da costruire molto, da fare un sacco di cose per migliorare la struttura che a Monza c'è, però insomma mi pare che questo paese qua il problema ci sia per questioni addirittura più impellenti, più urgenti, se parliamo anche di sport, per tutti, di denaro a disposizione del fare, e quindi non ci sono i soldi, Eccleston dice pazienza, vado dall'altra parte, non darei la colpa a Eccleston di una situazione che in qualche modo è molto seria, è molto complessa, che riguarda questo paese per molte ragioni, non solo sportive, e può essere che si perdano delle abitudini, degli spettacoli, insomma, ci sta. Lui non ha problemi di allargare mercati per questioni di merchandising, cioè lui ha problemi di andare dove c'è chi lo ricopre i soldi. Poi lui è una persona che secondo me non vuole troppi controlli, non so come dire, è una persona che ha bisogno di avere una certa mano libera e non sempre è possibile, insomma, non sempre. Se c'è di mezzo una regione, uno stato, un'istituzione rigorosa, qualche paletto te lo mette, quindi insomma forse non ha neanche più tanta voglia di stare a discutere o di venire a trovare dei compromessi in una situazione comunque economicamente non vantaggiosa. Certo. Ecco. Senti, un'ultima domanda te la faccio invece da rugbista, mi sa che te l'aspettavi, la nazionale e la battaglia del grano. Pessima figura. Mamma mia. Secondo me è una conseguenza di una serie di errori, secondo me, cioè del fatto di puntare tutto lì. Certo che sentir parlare di queste cose sul rugby è come veramente fuori da ogni tradizione. Però ci sta, nel senso che ormai siamo così, persino uno sport che alla base è molto lontano da questi discorsi in realtà poi alla fine va lì, e quindi purtroppo si andrà verso quella direzione lì, sul fatto che i giocatori di rugby debbano essere trattati come dei giocatori di calcio, anche se il movimento rugbistico è molto lontano dalla realtà del calcio. Sì. D'altra parte possiamo anche dire che da un lato loro sono professionisti, dall'altro lato chi gli chiede sei professionista, vuoi soldi, devi vincere, non mi sembra che sbagli. No, certo, però in realtà non è che l'Italia perde perché vuol perdere, l'Italia perde perché ha uno standard di qualità inferiore, cioè ai mondiali hanno in girone Irlanda e Francia. E ne passano due, vedi tu. Voglia o non voglia, la vedo dura. Cioè, non è che si impegnano e li sbaragliano, capito? È un po' così. Cioè, quindi dire così alla vigilia di un girone che è comunque, la vedi, proibitivo, visto che le beccano dall'Irlanda e dalla Francia quasi stabilmente, è come dire, piuttosto vi do meno, tanto per... Sì, sì. Inutile fargli vedere la carota, tanto l'asino non è mancanza di voglia, secondo me. Giorgio, grazie come sempre. Buona giornata, ragazzi. Un abbraccio. Ciao Giorgio Terruzzi. Allora Marco, torniamo a bomba con... c'era qualcos'altro da dire su questa storia dei nuovi parametri? Direi di no. No, c'è che da dire, insomma, che è un atteggiamento, a mio avviso, positivo quella della federazione. Sì. Forse si poteva anticipare, insomma, l'entrata in vigore di questi parametri, però si è voluto tener conto, insomma, di una situazione di difficoltà oggettiva. Però è un passo nella direzione giusta. Senti, ma non è che De Laurentiis ha messo le mani avanti, visto che mi pare abbia inaugurato una nuova politica dell'austerity? Beh, necessariamente l'ha dovuta inaugurare, perché ecco, non è riuscito in questi anni, ha avuto la capacità di tenere i bilanci in ordine e di migliorare costantemente la squadra, salvo nell'ultimo anno, che è stata una catastrofe, laddove nello stesso anno si sono mancate due partecipazioni alla Champions, qualcosa come 100 milioni che affosserebbero anche grandi club, a maggior ragione un club che ha un fatturato strutturale che non va oltre 120-130. E allora, avendo costi superiori ai 200, è chiaro che ti devi ridimensionare. Ridimensionarsi lo si deve fare con chiarezza e anche con un progetto chiaro, puntando sui giovani. Mi pare che stia andando in quella direzione. Io ho una preoccupazione di fondo, cioè non tanto uno scetticismo su Sarri quanto sulla pazienza di un ambiente napoletano che è già surriscaldato nell'aspettare i tempi in cui Sarri darà una fisionomia alla squadra, perché si deve fare tutto subito e questo a Napoli di solito non è concesso. Non so se sarà concesso a De Laurentiis dopo un'annata così e soprattutto a Sarri dopo Benitez, per quanto la scorsa stagione sia stata, ripeto, fallimentare. Sì. Daniele Savona, Luciano Pescara, prossimi due ascoltatori, buongiorno. Daniele. Buongiorno. Sì, buongiorno. Una domanda molto semplice, anche banale forse. Mi ha colpito molto la movimentazione societaria del Milan e la mia domanda è questa: per quale motivo l'Inter, considerando che è paritaria, cioè quindi svolge l'attività nella società, non ha pensato a fare un discorso come il Milan, cioè ad affidarsi ad un fondo di investimento? Beh, in parte lo ha fatto perché Mr. B diciamo aveva già l'appoggio di Doyen, mentre l'Inter ha voluto fare un percorso, come dire, autonomo, ma ha dovuto affidarsi a dei fondi perché ha ristrutturato il debito di 230 milioni che aveva Moratti, e dal quale Moratti doveva essere liberato. Però il problema è che appunto Moratti si attendeva che Toir pagasse direttamente e quindi togliesse questa zavorra dalle spalle dell'Inter. Invece non l'ha fatto, si è affidato a Goldman Sachs attraverso Unicredit e ad altri fondi, in questo caso puramente finanziari, che gli hanno prestato 230 milioni e proprio dal 1 luglio bisognerà pagare una rata di 1 milione e accantonare dai 15 ai 20 milioni per pagare la mega rata finale tra 5 anni, i 185, altrimenti diciamo la parte buona dell'Inter, che è messa da messa in una società e data impegno a Goldman Sachs attraverso Unicredit, si troverà evidentemente ad essere poi ceduta o salvo ricontrattazione. Ovviamente ci auguriamo che non vada in questo modo, però Toir mi sembra che abbia scelto un'altra strada, cioè affidarsi ai fondi, ma quelli finanziari e non a quelli finanziari calcistici. Tanto c'è una metà di Genova che in Europa ci andrà ed è la Sampdoria, perché è notizia di oggi che la sua difesa è stata accolta e sì, la Sampdoria farà l'Europa League. Il Genoa invece rimane confermato, già lo sapevamo. Beh, no, perché il Genoa aveva problemi di carattere, diciamo, burocratico economico, e su quello la UEFA ha dimostrato una certa inflessibilità. Per quanto riguarda la Sampdoria c'era un problema, perché le normative UEFA prevedono un'esclusione nel caso di una responsabilità diretta o indiretta in fenomeni illeciti e in combin. Noi parliamo nel nostro ordinamento invece di responsabilità oggettiva, e si è andata la Sampdoria a difendere anche con l'appoggio della federazione, dicendo che non si poteva equiparare l'oggettività alla responsabilità indiretta, che comunque una qualche forma di colpevolezza deve implicarla, e questo ha fatto sì, insomma, che ci fosse un atteggiamento meno severo da parte della UEFA, e sarebbe stato davvero, diciamo, ancora più triste per il nostro movimento vedere escluso anche la Sampdoria, no? E a catena poi avrebbero dovuto escludere il Torino e altre squadre, perché poi insomma, la Lazio e quant'altro. Quindi almeno da questo punto di vista ci siamo salvati. Luciano Pescara, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io sento parlare di attaccanti, Ibrahimovic ed altri, Mandzukic, eccetera. Io sono un tifoso juventino e questo forse è anche un consiglio per Marotta. Ma Edmond Falcao che fine ha fatto? Dato se va al Chelsea. Va al Chelsea, va. È sicuro? 100%? Sì. Peccato, perché sarebbe stato il sostituto ideale per Tevez, perché un giocatore che i suoi 20 gol a stagione lo garantisce sicuramente. Il problema è che costava il doppio di Tevez in termini di ingaggio Falcao. Sì. Sarebbe stata un'ottima alternativa. Assolutamente sì, ma non penso in linea con i parametri della Juve, insomma. Senti, ma tu sei molto fiducioso, mi dicevi prima, sul Milan e sulla possibilità del Milan di costruire da subito una squadra competitiva. Ora non so se Ibrahimovic o non Ibrahimovic sarà sicuramente una squadra di immagine. Ci saranno, sai, innesti importanti, poi come ben sai il calcio è strano, e quindi anche se metti grandi giocatori in un tessuto di squadra che non è compatto, non è diciamo certo al 100% che il rendimento poi sia di primo livello, però è chiaro che si farà una grande campagna acquisti e le prime mosse insomma sono lì a dimostrarlo. Un po' più di scetticismo sull'Inter. L'Inter gira, non riesce a schiodare. I dati economici sono quelli che sono, c'è necessità anche per l'Inter di andare in Europa, nell'Europa che conta ovviamente, quindi qualche colpo importante me lo aspetto, però per quanto riguarda l'Inter, anche per il blocco del fair play finanziario imposto dalla UEFA, immagino che ci si debba prima muovere sul lato delle cessioni, dei tanti prestiti, insomma delle tante situazioni da definire, prima di poter mettere sul piatto i soldi che servono per fare un grande colpo. Però ecco, due grandi colpi me li aspetto anche dall'Inter quest'anno. Francesco Perugia, buongiorno. Salve e buongiorno, io volevo fare un intervento in merito a Tevez, nel senso che ormai diciamo che è il passato, l'abbiamo ringraziato, stringiamo la mano, tornasse pure in Inghilterra e dobbiamo guardare avanti. Ma non va in comunque non va in Inghilterra. In Inghilterra, in Argentina. E dicevo, secondo me l'acquisto fondamentale per la Juve non è tanto una punta, ma un trequartista che sta cercando Allegri, e Oscar secondo me potrebbe fare al caso nostro. Quindi il grande attaccante secondo lei no? Secondo me va via Tevez, non si prende un grande attaccante, si va con Dybala e Morata? Non lo prendo, comunque vanno su un Mandzukic che per me non è un sostituto al livello di Tevez, ecco, è un giocatore con altre caratteristiche, andrà via Llorente tra l'altro, e quindi arriverà Mandzukic tra i due, insomma due eccellenti giocatori, probabilmente io mi prenderei Mandzukic, cosa che la Juve farà, però insomma per la Juventus ti ricordi si è parlato un sacco di tempo, i top player, no? top player, manca il top player, il top player poi alla fine che è Pirlo, ce l'avevi in casa, perderà anche lui, però il top player è stato negli ultimi due anni Carlos Tevez. Di fatto sì, i numeri lo dimostrano, e il carisma credo che abbia messo in campo Tevez, nessun'altra squadra italiana se lo poteva permettere, compreso il Napoli con Higuain, che pur avendo segnato. Ma va via secondo te altrettanto? Higuain. Beh, credo che dipenda tutto dalle offerte, insomma, della Juventus, l'ho detto, se arriva una buona offerta, e per buona offerta intendo sopra i 40 milioni, c'è la possibilità concreta che vada via, così come io ho memoria corta, ma non erano le stesse parole che hai usato per Cavani? Sì, più o meno sì, quindi in questo caso l'aspetto finanziario è fondamentale. Penso che per la Juve, guarda, c'è una situazione di oggettivo vantaggio dal punto di vista tecnico sportivo, per cui la Juve, dopo essere arrivata in finale quest'anno in Champions, potrebbe magari permettersi per un anno un attacco giovane. Sì. Magari puntando più a rinforzare il centrocampo, a puntellare la difesa e vedere come va, insomma. Ma quello che dicevo io ieri, senza fare Italia grande colpo adesso, in Italia ha un margine di vantaggio talmente ampio che può permettersi di programmare anche le cose con calma. È chiaro che poi essere competitivi in Europa è un altro discorso, dopo essere arrivati in finale, cioè almeno fuori dagli ottavi non ci vuole più stare, chiaro. Però ecco, partire per migliorare la posizione raggiunta in Europa e porsi questo obiettivo, e dunque fare una campagna acquisti aggressiva, mi sembrerebbe, diciamo, esagerato, e comunque non nelle corde della coppia Marotta-Paratici, che ha dimostrato di saper gestire molto bene e le cose sportive e quelle economico-finanziarie. Benissimo, dobbiamo chiudere qui l'appuntamento con Marco Belinazzo. Infilate in valigia Goal Economy del suddetto Marco Belinazzo del Sole 24 Ore, leggetevelo, e se vi viene qualche dubbio, se vi viene qualche domanda da fargli, chiamateci. Noi siamo qui a rispondere. Siamo qui. Marco, grazie, a presto. Grazie a voi, a presto. Grazie a Marco Belinazzo, a Giorgio De Luca, nostro autore, a Giovanni Melchiori in redazione e a Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti, ci sentiamo domani alle 2. È sicuro? 100%?